solo per il mio mal di testa. Tornare da Milano all'ora di punta serve solo per il mio mal di testa. Amo molto il rumore, però la techno serve solo per il mio mal di testa. È bello l'amore, ma una ragazza può solo aumentare il mio mal di testa. E allora vado, comincio a cercare, aprire i cassetti del comodino o quelli del bagno piccolo. Devo risolvere il problema, o credere di risolverlo. Però Giove ha cagato fuori Minerva da un'emicrania. Ho bisogno di pillole che facciano passare. La bravura, ma a volte il jazz serve solo per il mio mal di testa. Non odio il calcio, a chi ne abusa, serve solo per il mio mal di testa. E spesso di sera, se non digerisco, accuso leggeri principi di mal di testa. E allora vado, comincio a cercare.